Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Al terzo piano dei ponteggi, su Via Pre, verso il confine del cantiere, proprio all'angolo con Vico Pace, la signora mi descrive una stanza dove c'è un armadio coricato, con sopra mozziconi di candela. Dalla finestra non si vede, ma dietro l'armadio c'è un materasso, ed è sporco di sangue. Mi chiamo Giorgio Tanasini, ho 58 anni appena compiuti, faccio l'architetto, sono di Genova, sono felicemente sposato con due figli e quattro nipoti. Caro Matteo, a me è capitata una cosa che mi ricorderò finché campo. Premessa. Il sottoscritto non crede al paranormale, non crede a premonizioni, visioni e affini, religiosi e non religiosi che siano. Un giorno di alcuni anni fa ero fermo in macchina al lato della strada. Stavo aspettando un avvocato per recarmi assieme a lui ad un appuntamento. Ascoltavo Radio 24 ed ero assolutamente assorto nei fatti miei. A un certo punto passa a piedi a fianco della macchina una vecchina, grigia di capelli e un po' ricurva. Non la vidi in faccia. Mi accorsi di lei quando già mi aveva superato. E istantaneamente, appena entrata nel mio raggio visivo, mi corse un brivido e un pensiero che stupì me stesso. Pensai che quella donna fosse la morte. Non so perché, non chiedermelo, ma fu un pensiero lucido come mai, una cosa che non avevo mai pensato in vita mia prima di allora. Un po' agitato e anche stupito, la guardai allontanarsi. Piano piano i miei pensieri tornarono al lavoro e di lì a poco arrivò la persona che attendevo. Iniziai a parlare con lui e non ci pensai più. Dopo poco accesi la macchina e ripartimmo. Mentre parlavo con il tizio a fianco a me, non feci nemmeno un centinaio di metri e, voltata una curva, vidi la vecchina, a terra, sul marciapiede. Era già attorniata da altri passanti e l'ambulanza si sentiva in lontananza. Non mi fermai, ma non la scorderò più. Perché la cosa strana che succede quando chiedi a delle persone di scriverti una storia, qualsiasi essa sia, basta che sia una storia vera, realmente accaduta nella tua vita e che in qualche modo racconti di te, arrivano storie che voi non potete nemmeno immaginare, o forse lo immaginate perché continuate a mandarle. Questo però significa, ad esempio, trovarsi a leggere nel pieno dell'estate, perché la storia di Giorgio era arrivata a giugno, credo ancora, anche perché Giorgio ne ha scritta più di una di storia. Giorgio è un architetto, ha la faccia molto simpatica, si vede dalla foto che vi racconterò più tardi, e anche dalla voce si sente che lo è. Ha scritto diverse storie e una di queste riguardava questa scoperta in un cantiere. Lui è un architetto, in un cantiere in cui lui stava lavorando. E più tardi, rimanete lì. No, ho detto rimanete lì. Che roba orribile. Sembro Mike Buongiorno. Diceva così Mike Buongiorno. Rimanete lì. Non rimanete lì. State ad ascoltare quello che volete. Però la storia è molto interessante perché parla di cose paranormali. E siccome ogni piccola storia porta sempre un indotto, un corollario di storie intorno, questa è la mail che mi era arrivata oggi. Me l'ha mandata Ugo. E parlava di quando appunto ha visto questa vecchina che dopo poco è stramazzata al suolo. Non si capisce se ha a che fare con le premonizioni o solo con la sfiga questa, Ugo. Però di quello stiamo parlando. Ma ad esempio anche Massimo mi ha scritto: nei minuti in cui stava morendo mio padre in ospedale, in casa si è staccato dal muro un piccolo quadretto di Gesù verso il quale si faceva il segno della croce ogni volta che usciva di casa. Lui non era un cattolico praticante, anzi era proprio anticlericale. Interpreto questo segno come purezza di animo del babbo. Poi ognuno dà, diciamo, le letture che vuole alle cose che succedono. Però oggi si parla di quella cosa lì, si parla di quelle cose che nemmeno noi sappiamo spiegare, che però sono successe, in qualche modo sono successe, magari per caso. Però una giustificazione noi in un modo o nell'altro gliel'abbiamo data. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Adesso non mandatemi tutte le storie di paranormale, però continuate a pensare solo a un episodio della vostra vita e che vi rappresenti. Niente. Semplicemente, che devo dire? Semplicemente è arrivato il momento di sentire la storia di Giorgio. Giorgio, vi ricordo, è un architetto, è una persona per bene, è una persona sana, ma ha vissuto questa storia qua. Sono circa le 12, ora in cui gli operai vanno a pranzare. Mi chiamano, c'è una persona che mi vuole in piazza Sant'Elena. Anch'io sto per andare a mangiare, ma vado a vedere di che si tratta. Trovo una signora di mezza età, un cagnolino in braccio, un uomo al fianco. Mi presento. La donna si lancia in un'esigente richiesta. vuole salire sui ponteggi alla ricerca di un luogo che ha visionato nel corso di una seduta spiritica. Perché non me lo vuole dire, tanto non le crederei, così dice lei. E infatti ha ragione, non le credo. Anzi, sono piuttosto contrariato di dover perdere tempo ascoltando farneticazioni su visioni spiritiche. E in più devo andare a pranzo per tornare presto e sbrigare alcune pratiche. Mi dichiaro irremovibile, soprattutto se non mi viene fornita una spiegazione più credibile. Lei mi dice che assolutamente trovare la camera dove è stata uccisa sua figlia per lei è un'esigenza. È sicura che è stato qui, in questo cantiere. Le dico, signora, guardi, da quando me ne occupo io in questo cantiere, fortunatamente non è stato trovato alcun cadavere. Non dica sciocchezze, si figuri se la polizia non mi avrebbe sigillato tutto. È chiaro che lei si sbaglia. Lei mi prega, mi dice che sua figlia è stata portata su dei ponteggi di vecchie case, in una stanza vicino a un mercato coperto. Mi chiede se ce n'è uno nelle vicinanze. E in effetti ce n'è uno, in Piazza dello Statuto. Poi lei mi fornisce altri dettagli che coincidono tutti. La sua disperazione è reale e la sua richiesta è impellente. A quel punto la mia intenzione di lasciar perdere vacilla. Decido di dare una possibilità a questa signora. Rinuncio al pranzo di mezzogiorno. Le concedo un'ora e la accompagno sul ponteggio. Le chiedo di descrivermi tutto quello che può. Non so nemmeno io perché lo faccio. Lei mi ringrazia, mi dice che sua figlia è salita sui ponteggi arrampicandosi da un cancello. Poi attraverso scalette e botole è salita al quarto e poi al quinto piano. Saliamo. Lavorando nel centro storico non si può recintare il cantiere, quindi una delle cose più importanti è la convivenza con quel sottobosco di umanità che si nasconde nel centro, che vive nel centro storico perché non ha altri posti dove poter vivere e che sono anche situazioni più disagiate. Lei mi dà delle indicazioni su dove andare, come se fosse già stata lì. Colori delle scale, passaggi conosciuti solo agli addetti ai lavori. I casi sono due, o la signora è già stata su questi ponteggi, oppure le hanno fatto una descrizione più che accurata. In cuor mio comincio a darle credito, anche se rifiuto categoricamente di credere a storie soprannaturali. Al terzo piano dei ponteggi, su via Pre, verso il confine del cantiere, quasi all'angolo con Vico Pace, la signora mi descrive una stanza dove c'è un armadio coricato con sopra dei mozziconi di candela. Dalla finestra non si vede, ma dietro l'armadio c'è un materasso, ed è sporco di sangue, il sangue di sua figlia. Effettivamente troviamo una camera che, vista dalla finestra, risponde alla descrizione. Allora entro io, ordinando alla signora e al suo compagno silenzioso di restare sul ponteggio. Trovo un materasso. Riferisco alla signora, lei comincia a gemere e una volta entrata si inginocchia e si mette a piangere. Torniamo indietro silenziosi, non c'è più niente a guardare. Confesso di essere un po' scosso, accompagno la signora al cancello del cantiere. Lei, salutandomi, mi dice che riferirà alla polizia, che venga, veda e indaghi. Io torno in ufficio, digiuno. Racconto l'accaduto a Villa, Stefano e Mario. Nessuno ovviamente mi prende sul serio. Verso le 17 squilla il telefono. L'interlocutore si qualifica poliziotto della scientifica di Savona. Mi chiede di confermare se ho accompagnato in cantiere una signora. Mi chiede cosa cercava, cosa è stato trovato. Io confermo tutto. Lui allora mi dice di tenermi a disposizione perché sta aspettando il mandato di perquisizione del GIP per venire con la squadra a verificare. Io dico che non c'è bisogno di mandato perché non mi oppongo, ma lui sostiene che si deve fare perché le prove eventualmente raccolte non possono essere invalidate per vizi procedurali. Essere coinvolto in questioni di polizia non mi piace, anche se non ho fatto nulla. Poi finalmente alle 19 mi telefono alla squadra e dopo mezz'ora siamo sul cantiere. Faccio un riassunto di quel che è successo, devo rispondere alla seguente domanda. Mi risponda senza pensare. Che impressione ha avuto della signora? E io dico quello che penso, che mi pareva fosse già stata in quel cantiere, che conoscesse il percorso che le ho fatto fare, almeno in parte, perché mi preannunciava particolari che nemmeno io conoscevo e avevo notato prima. Loro hanno un'espressione scettica, non commentano, non danno spiegazioni. Io sono piuttosto scettico, ecco, come atteggiamento credo di essere una persona molto razionale, molto pragmatica, per cui fondamentalmente non credo nel soprannaturale. È certo che mi sono dovuto ricredere. Scaricano dall'auto 3 valigie nere, una borsa da macchina fotografica, 3 piedi e faretti da set cinematografico. Mi chiedono di guidarli. Cammin facendo faccio vedere le cose che mi hanno colpito perché predette della signora. Arriviamo sul luogo. Dopo aver indossato guanti di lattice, entrano, chiedendomi di restare sui ponteggi, ma di continuare a descrivere i fatti del mattino. Fotografano, prelevano campioni, trovano sull'anta della porta una traccia di sangue, che è come se qualcuno, per pulirsi la mano, l'avesse sfregata sulla superficie smaltata. Quando hanno finito li riaccompagno all'auto. Cedo alla curiosità e chiedo spiegazioni. Loro sono molto reticenti, non dicono quasi nulla. Fanno quasi per caso cenno alla morte di una ragazza all'ospedale di Savona, qualche settimana prima. Mi salutano ringraziando della collaborazione e già seduti in auto, prima di avviare il motore, mi dicono: si tenga a disposizione, è possibile che debba venire a Savona per testimoniare. Non ho mai più sentito nulla. Fortunatamente nella mia vita non ho mai avuto a che fare con assassini o vicende da thriller come è capitato a Giorgio. E nemmeno con spiritisti o fantasmi. Però come tutti sono stato un adolescente e quindi ho sempre avuto molta fantasia. Ho vissuto diverse storie, tutte quelle che la mia mente costruiva agganciandosi al più piccolo indizio. E poi sono sempre stato anche uno molto suggestionabile. D'estate poi, soprattutto, per qualche motivo, tutto diventa più forte, no? Come più vivo. Non lo so perché, forse hai più tempo a disposizione e la mente è meno impegnata con la scuola, i compiti o semplicemente la routine quotidiana. E la storia di Giorgio mi ha fatto ricordare di quando mi sono praticamente inventato un omicidio. Mi sono inventato un assassino e pure un alibi. È successo così, eravamo in vacanza, come tutti gli anni, in una località di mare che era la solita, che era l'Isola d'Elba. I nostri vicini di casa erano una coppia di non più giovani signori di Torino, mi pare. Sempre quelli, da sempre, però mai veramente intimi. Erano una coppia molto riservata, insomma, erano piemontesi. Vanno in spiaggia la mattina e tornano per pranzo. Poi riposano un po' sul terrazzino, verso le 5 tornano in spiaggia, fino all'ora di cena. Che io ricordi hanno sempre fatto così, fino al giorno in cui lei è scomparsa. Non è successo in modo rumoroso, eh? Semplicemente una mattina, mentre giravo in bici in attesa che succedesse qualcosa, che arrivasse Mario, il mio amico, che cadesse una pigna, che mi venisse voglia di andare al mare a raggiungere i miei, ho visto uscire lui di casa con l'asciugamano e le ciabatte, ma senza nessuno a fianco. E quei due erano sempre stati molto abitudinari, e vederlo uscire da solo mi aveva sorpreso. Chi lo sa, magari lei era malata. E allora guardo verso casa loro, ma le tapparelle sono tutte completamente abbassate. Come facevano sempre, no? Come facevano ogni singola volta che uscivano di casa. E lei dov'era? Ne ho parlato con Mario quando è arrivato, ma lui era troppo interessato a come procurarsi i soldi per il gelato che voleva mangiare prima di fare il bagno. Aveva una specie di sfida quotidiana contro la congestione. Per 2 giorni ho monitorato quella casa e la signora non si vedeva. Il marito rientrava dalla spiaggia, cenava in terrazzino da solo, come se niente fosse. Solo che quei due erano indivisibili e non c'era verso che non fosse successo niente, almeno nella mia testa. La mattina dopo il torinese era uscito presto e con una grossa valigia. L'avevo visto dalla finestra. L'aveva caricata in macchina ed era partito. Dopo neanche un'ora era tornato, senza valigia però. Ecco, io devo dire, non avevo ancora visto la finestra sul cortile, ve lo giuro. Eppure ho fatto 2 più 2 e ho pensato che lui l'avesse ammazzata. E non so nemmeno perché, magari perché lei era semplicemente troppo rompipalle. E poi ovviamente l'aveva tagliata in pezzi e messa nella valigia. E buttata da qualche parte, magari in una discarica. Ma ne ero convinto. Avevo perfino convinto Mario, che tanto nel frattempo aveva veramente avuto una congestione e quindi non mi poteva aiutare a indagare. Niente, a quel punto io avevo un unico obiettivo: smascherare l'assassino, che tra l'altro era più abitudinario di quello che aveva ammazzato. Passato il secondo giorno ero indeciso se dirlo ai miei, perché la cosa era molto grave. Ma mentre stavo per farlo, ho sentito il rumore di un taxi che arrivava e scaricava la signora con una bella valigia blu e un elegante foulard rosso. Il marito è sceso e l'ha accolta con un bacio. Era lei, viva e sorridente. Poi, siccome era metà mattina, sono andato in spiaggia. Non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno ai miei, nemmeno a Mario. Tutti tutti hanno una piccola storia del soprannaturale o del paranormale, che poi non so cosa, non è la stessa roba, no? Soprannaturale e paranormale. Ma sì, di là dal vetro nessuno lo sa, ma pare anche nessuno fregarsene. Michele mi scrive: una luce improvvisa di notte in camera da letto. Io mi sveglio, mia moglie si sveglia, mi chiede che cos'era. Io le chiedo che cos'era. Ci viene detto che era uno spirito. Michele, innanzitutto, che tipo di luce? Uno. Due, vi viene detto da chi? Cioè, c'era qualcun altro in stanza? Oppure qualcuno che è esperto di luci notturne nella notte? O forse una voce soprannaturale? Grazie anche Paolo da Perugia che scrive: ma te, ti capitano tutte a te. Ma questa non è capitata a me, questa è capitata a Giorgio, che è un architetto, che è di Genova ed è al telefono. Pronto, Giorgio? Pronto, Matteo. Ciao, come stai? Grazie per essere qui. Bene, grazie. Tu come stai? Io me la cavo. Senti, Giorgio, sei in studio in questo momento? No, in questo momento sono uscito da un corso di... auto di Revit, che è un applicativo di AutoCAD per disegnare in 3D. Quindi tu sei uno di... ai tuoi 58 anni, giusto, dicevi, Giorgio? Sì. Quindi sì. Sei uno... non sei di quelli che dicono: ah no, certe robe le faccio fare ai giovani. No, devo farle io. Che tipo di architetto? Bisogna saper fare per poter comandare. Che tipo... Uella, questa, guarda, Giorgio, questa me la incornicio e la riutilizzo nei prossimi giorni. Senti, senti, che tipo di architetto sei? Io sono un architetto cantierista, sto nel cantiere e mi occupo, sono un super geometra, dando molto valore ai geometri. Con tutto il rispetto per i geometri, certo, che hanno sempre costruito delle belle villette, soprattutto nella provincia novarese. Sì. Cioè, parlo per me, sì, parlo ecco. Di quello che conosco, Giorgio. Ma veniamo all'episodio, Giorgio, perché è un episodio comunque che ha una sua aura di mistero, quantomeno. Certo. Cosa è successo dopo? Dopo cosa? Non è più successo niente, non hai più sentito della signora, non hai letto notizie. Non ho più niente, non ho niente, ho fatto un'indagine, qualcuno mi avrebbe detto, mi ha detto, ma non senza nessun fondamento di sicurezza, che questa ragazza era sì, è arrivata da Savona per acquistare della droga e poi che aveva avuto questa, si era sentita male dopo averla utilizzata e rientrando è stata ricoverata all'ospedale e pare che farneticasse, però le cose che mi diceva sua mamma quando passeggiava, quando l'accompagnavo sui ponteggi, non potevano essere certamente capite, ricordate su un passaggio notturno. Ma quindi tu un po' ci credi a questa storia qua? Cioè un po' alla fine ci hai creduto? Alla fine mi sono dovuto convincere, io non ci credo. Ma tu non hai mai fatto una seduta spiritica in vita tua, Giorgio? Neanche da bambino? No. Niente, tutti abbiamo fatto una seduta spiritica toccando il tavolo. Niente. Senti, dimmi invece quel cantiere lì che fine ha fatto, l'hanno finito? L'ha finito, sì, l'unico cantiere d'Italia con quel finanziamento che dal 1982 che è stato completato, che è stato anche collaudato con grande soddisfazione sia del ministero che del comune. Guarda, si sente già la tua vena tecnica e già la adoro. So che potresti parlare di robe di architettura per la prossima mezz'ora, però io purtroppo devo salutarti. Giorgio, ti ringrazio moltissimo per il racconto. Niente. Non solo per questo, anche per tutti gli altri che hai mandato e per essere stato con noi. Ti ringrazio anche te. Buona giornata. Ciao, saluto a tutti. Ciao. Grazie, io saluto a tutti, anche tu. Chi? Boh, la famiglia, ad esempio. Adesso la borsa, come, non cambia niente. Adesso la borsa, oggi è lunedì 10 ottobre del 2011 e al ritorno c'è una sorpresa. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Giorgio è insieme a un nipote, evidentemente, perché è un bambino molto molto piccolo, con i capelli sparati in testa e un ciuccio in bocca. Lo tiene in braccio, ha una bella camicia a righe, ha una bella barba bianca, è proprio di profilo, ha anche un bel nasone, Giorgio, però ha proprio la faccia simpatica e soprattutto ha quella roba che giusto i tecnici hanno, geometri e architetti, gli occhialini appesi al collo. Qualche tempo fa, oggi avrei dovuto parlare d'altro in questa seconda parte del programma, poi succedono cose più interessanti e più importanti, allora si cambiano i programmi. Qualche tempo fa, i più attenti di voi si ricorderanno che avevo sentito un mio carissimo amico che si chiama Rosario Tedesco per l'esattezza, che stava facendo un'operazione che ha a che fare con il cammino e si trovava nella fattispecie quel giorno a Budapest, giusto? Eri a Budapest. Sì, buongiorno a tutti, ero a Budapest. Allora, Rosario, che cosa sta facendo? Sta facendo una di quelle cose per cui ci si domanda: ma perché esattamente lo fai? E adesso lo chiederemo a lui. In questo momento è a Milano perché sta facendo una pausa. Sono qui con voi. Giusto, con noi, nel senso che mi dai del voi. Con voi tutti della radio. Sta facendo una pausa, però a metà luglio, esattamente il 13 di luglio. Il 14 luglio ha cominciato un cammino che l'ha portato dalle sorgenti del Danubio, Donaueschingen, in Germania, nel sud della Germania, vicino a Friburgo, è la fine della Foresta Nera, fino a Budapest per il momento, in Ungheria, attraversando quattro nazioni: la Germania, l'Austria, la Slovacchia e l'Ungheria. Dopodiché a maggio riparti da Budapest. A maggio riparto da Budapest diretto verso il Mar Nero. Attraversando altri stati? Farò la coda dell'Ungheria, la Croazia, la Serbia, e poi il fiume diventa confine naturale tra Romania e Bulgaria per sboccare poi nella parte rumena nel Mar Nero. Anche se il fiume da Tulcea si divide in tre rami e il ramo nord, Chilia, tocca la Moldavia e l'Ucraina, però io quel ramo non lo attraverserò perché ci vogliono dei permessi scientifici, biologici e non... Biologici pure. Sì, perché soltanto un parco naturale, solo con dei permessi per motivi sia politici sia culturali, insomma, non vengono concessi a chi non è laureato. Devo dire, tutti gli amici, quando un anno fa, quando è che l'hai deciso? No, forse più di un anno fa. L'ho deciso nel 2009, quando mi trovavo tra Santiago e Finisterre, alla fine, alla conclusione del mio cammino di Santiago. Quando tutti gli amici hanno saputo di questa decisione di Rosario, diciamo, un pochettino hanno pensato fosse, vabbè, poi gli passa. La cosa invece non gli è passata, fortunatamente in realtà non gli è passata, perché noi ci siamo visti l'altro ieri, dopo che non ci vediamo da mesi, e chiaramente le storie che Sasà sta raccogliendo sono un migliaio, forse di più. La cosa per cui avevo piacere di raccontarvi questa storia, di farla raccontare da lui, è che questo programma racconta ogni giorno una storia diversa, ma lo fa in maniera stanziale, cioè noi siamo qui, voi siete lì e mi mandate le storie. Sasà fa l'opposto. Sasà è partito, c'ha uno zaino in cui c'è dentro, posso dirlo, due mutande, due paia di calze e due magliette che ti lavi tutti i giorni. Tutti i giorni. E questo zaino idealmente ci infila delle storie. Esatto. Ok. Più tardi magari ce ne racconti una, magari, una con precisione. Adesso però, prima di mandare un pezzo che hai portato tu, non so se l'hai portato tu. Parlando con Tiziano, abbiamo concordato sul Gogol Bordello, che appunto è un gruppo di origine ucraina, e che anche se non verrà toccata, però fa parte del Danubio. Dimmi qual è, ripensando a questi 74 giorni? Sono 72 giorni. 1193 chilometri e quattro nazioni. Dimmi la prima cosa che ti viene in mente ripensando a questi. Penso sicuramente ai re e le regine della Germania. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, il progetto di Rosario si chiama Il Vento nelle Scarpe. C'è chiaramente un profilo su Facebook, andate a visitarlo perché ci sono tutte le foto. Perché raccontare una cosa, vederlo invece è un altro. Anche vedere lui, devo dire, è un'altra cosa rispetto a raccontarlo. Di tutte queste storie, Sasà, che stai raccogliendo lungo il viaggio, scusa, mi dicevi ce ne sono due, cioè quelle che stai raccogliendo e quelle che hai raccolto prima, certo, di partire. Per affrontare questo cammino ho cominciato a creare dei contatti, a cercare in Romania, in Serbia, in Croazia, ovunque avessi delle persone che conoscevo, e per esempio tramite l'aiuto di un'amica ho conosciuto un ingegnere che si chiama Giacomo Borta, un ingegnere che si occupa di legname e vive nella parte al confine con la Moldavia. Ma che ti ha ospitato anche? No, non ancora, perché in Romania non sono ancora giusto. Andato, e questo ingegnere mi era parlando del fiume, del Danubio, mi ha raccontato la storia di Gheorghiu Bogdan, un uomo che prima del 1989 è scappato a piedi attraversando la Romania, raggiungendo il confine con la Serbia, e poi ha attraversato il fiume in un modo che è stato rocambolesco. Ha preso una bombola di ossigeno e quindi con la bombola di ossigeno, a cavalcioni della bombola di ossigeno, aprendo il bocchettone della bombola, come se Se desse gas, no? Come una specie di propulsione, e ha attraversato il fiume in questo modo. E Giacomo Borta mi ha raccontato che Gheorghiu è riuscito a farlo perché era un campione di arti marziali. Ah, ok. Raggiunta la Serbia, aveva una prestanza fisica, insomma, poteva cavalcare una bombola di ossigeno. Raggiunta la Serbia, è arrivato a piedi fino in Svizzera, dove ha lavorato, ha trovato un lavoro, si è stabilito là, e dopo anni ha deciso di ritornare però a casa sua, in un paese che si chiama Roman, al confine con la Moldavia, dove tuttora vive. E quanti anni ha questo tizio più o meno? Questo tizio ha la mia età, insomma, intorno ai 38-40 anni. Ah, è un ragazzo ancora? Direi, sì, un giovane ragazzo. Quindi hai in mente di incontrarlo? Ho in mente di incontrarlo in Romania, sto cercando di contattarlo per far venire lui a Tulcea, il posto più vicino a Roman, per incontrarlo e fare due passi con lui. Quindi allora vi ricordo che appunto il profilo di Rosario è Il Vento Nelle Scarpe, su Facebook lo trovate molto facilmente, che siamo arrivati neanche a metà, in realtà siamo arrivati poco prima, poco della, prima metà. Della metà. Diciamo che il fiume si conta a 2840 km, è la distanza che trovi a Donaueschingen, dove c'è la sorgente, 2840 km al Mar Nero. Man mano che scendi i chilometri diminuiscono. Adesso mi mancano 1647 km per raggiungere il Mar Nero. E ripartiamo il primo di maggio? Il primo di maggio è la mia data, diciamo, per il momento ipotetica. Vorrei riuscire, il giorno dei lavoratori, vorrei iniziare a camminare. Questa è la storia di Sasà, che raccoglie una marea di storie durante il suo percorso. Infatti noi a maggio ci sentiremo molto più di frequente. Grazie a te, Sasà. Grazie a tutti voi. Grazie a quelli che hanno reso possibile il programma anche oggi. Grazie a Stefano D'Andrea, Paulino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Aina, che come un evento soprannaturale è apparsa di là dal vetro al posto di Viola Bottoni. Si è parlato di fiume, si è parlato del fiume di Rosario, si è parlato del Danubio. E la storia di oggi era quella di Giorgio e parlava di soprannaturale. La storia di domani invece è una storia di Massimiliano e racconta anche quella del suo fiume. Sono le 6 del pomeriggio, il sole è ancora alto. Siamo in piedi, di fronte alla paladella degli spagnoli. C'è almeno un metro e mezzo d'acqua. Ho le pinne. Percorriamo il prato a monte, fin dove è possibile tuffarsi. L'acqua del Ticino è ancora molto fredda e ha il sapore della neve come solo in questi giorni di tarda primavera. Faccio 4 bacciate, decise. Guardo Beppe. Lui ha già tagliato un po' la corrente. È molto forte e ci trascina più a valle. Lo seguo.